ad alta voce. Monica De Muro legge L'iguana di Anna Maria Ortese. Il compratore di isole. La passeggiata in via Manzoni. Daddo. Come tu sai, lettore, ogni anno, quando è primavera, i milanesi partono per il mondo in cerca di terre da comprare. Per costruirvi case e alberghi, naturalmente, e più in là, forse, anche case popolari. Ma soprattutto corrono in cerca di quelle espressioni ancora rimaste intatte della natura. Di ciò che essi intendono per natura, un misto di libertà e passionalità, con non poca sensualità e una sfumatura di follia di cui, causa la rigidità della moderna vita a Milano, appaiono assetati. Incontri con gli indigeni e la cupa nobiltà di questa o quella isola sono tra le emozioni più ricercate. E se ti viene in mente che emozioni sia un traguardo inadeguato alle vaste possibilità del denaro, rifletti sulla stretta corrispondenza tra grandezza economica e indebolimento dei sensi, per cui al massimo del potere di acquisto si ha non so che ottundimento che generale incapacità di discernere, di gradire. E colui che ormai potrebbe cibarsi di tutto non gusta più che poco o niente. Allora, di certi forti sapori, che poi non sono affatto forti, anzi banalissimi, va a caccia e darebbe la vita per quelli. Non è forse il caso della maggioranza dei milanesi che, stretti dalla vita aziendale, ancora non hanno viaggiato né visto niente e, in più, hanno curiosità rudimentali. Ma certo che una minoranza, quella infine, che dà lustro alla città, è fatta così. E non si deve pensare, tuttavia, che manchino in mezzo ad essa elementi ingenui, puri, raziocinanti, il meglio, insomma, dell'antica Lombardia. Tutt'altro. Don Carlo Ludovico Aleardo di Grez, dei duchi di Estremadura Leardi e conte di Milano, casata, come appare evidente, di origine per due terzi svizzero-iberica e non pertanto il più allegro e buon lombardo che si possa dare, era di questi. Sui 30 anni ormai, figlio unico, rimasto ancor giovanissimo a causa della morte del padre, il buon conte Aleardi, padrone di un'estesa sostanza, oculatamente amministrata dalla contessa madre, associava la passione della vela e una indistinta idealità che venivagli dal padre a una meno indistinta, per quanto involontaria, attenzione ai precisi e macchinosi interessi materni, che prevedevano per il giovane, nei prossimi anni, una sempre più serrata e progressiva moltiplicazione di quei beni che erano in case e terreni, e partiva perciò ogni primavera in cerca di terre, dove lui, che era architetto, avrebbe costruito poi ville e circoli nautici per la buona società estiva di Milano. Avevano comprato molto finora e intendevano, cioè era la contessa madre che intendeva, comprare ancora. Di ciò, in realtà, al Daddo, così veniva chiamato il conte, non sembrava importare granché. Da qualche parte gli era filtrata nel sangue un'allegria cristiana che lo faceva indifferente, in fondo, a tutti gli averi, come se il senso delle cose fosse un altro. Quale non sapeva, né, data la modestia della sua intelligenza, avrebbe forse saputo mai. Ma erano famose anche allora, che Milano non era così tetra, le sue fresche e calme risate, sempre pronte sulla bocca di fanciullo alla minima occasione, come se una festa nascosta ad altri, una musica dietro un muro, una certezza misteriosa di gloria e tranquillità, indipendenti dalla gioventù, dagli averi, dal nome, eternamente disponibili, lo rassicurassero. Non si era ancora sposato, né, malgrado le pressioni della contessa madre, che aveva già visitato alcune cospicue famiglie svizzere, pensava di farlo, in quanto gli sembrava che ciò lo avrebbe limitato. In che cosa, poi, non si sa. Conduceva la vita più semplice, quasi monotona, che si possa dare, vera vita di Certosino. Tutto il giorno in studio a disegnare case come un bambino, mentre la sera sua unica distrazione era vedersi con Boro Adelchi, un giovane editore della Nouvelle Vague, ambiziosissimo e ancora nei guai, cui il daddo, si è detto fra parentesi, passava continuamente di nascosto dalla madre fior di denari. E fu proprio l'Adelchi, una di quelle sere di aprile, che Milano è tutta verde, tutta delicata, e la via Manzoni sembra non finire mai, a gettare il seme dell'avventura che narriamo. Disse dunque il Boro Adelchi, un po' pensierosamente. Sì, le cose non vanno male, ma ci vorrebbe qualche cosa di inedito, di straordinario. La concorrenza è forte. Tu che vai viaggiando, daddo? Ma perché non mi procureresti qualcosa di primitario, magari da normale? Tutto è già scoperto, ma non si sa mai, eh? Tutto può darsi. Ci vorrebbero le confessioni di un qualche pazzo, magari innamorato di una iguana. Rispose il daddo scherzosamente, e come gli fosse venuta in mente non si sa. Ma subito tacque. Pentito di quel suo prendersi gioco della malattia, dell'animalità, due cose per le quali, pur non avendone alcuna esperienza, provava, come molti lombardi, una pietà grandissima. «Non so», rispose l'Adelchi, che non aveva avvertito lo scherzo. «Io direi qualche poema, qualche canto più che altro, dove si esprima la rivolta dell'oppresso». E tacque anche lui, ma solo perché le sue idee a questo proposito non erano del tutto chiare e si vergognava di farlo conoscere al conte, il quale, d'altra parte, non era più aggiornato di lui. E a questo punto vale la pena di accennare a una strana confusione che dominava allora la cultura lombarda e condizionava perciò l'editoria su ciò che si deve intendere per oppressione e conseguente rivolta. Sia la prima che la seconda apparivano ai lombardi, probabilmente in polemica con la minacciosa ideologia marxista, niente più che una faccenda di sentimenti e di libertà di esprimerli, dimenticando che dove non ci sono denari, stante le antiche convenzioni del mondo, o dove il denaro può comprare tutto, dove c'è penuria e ignoranza grande, là neppure i sentimenti o la voglia di esprimerli esistono. E insomma, i lombardi avevano per certo che un mondo oppresso abbia qualcosa da dire, mentre se l'oppressione è antica e autentica, l'oppresso non esiste neppure, o non ha più coscienza di esserlo, ma solo esiste, sebbene senza una vera coscienza, l'oppressore, che a volte per vezzo simula i modi che sarebbero legittimi della vittima, se ancora esistesse. Ma queste naturalmente erano sottigliezze, ofisime, impossibili da sottoporre alla fame che gli editori mostravano di cose stuzzicanti il languido appetito del pubblico. Simili ragionamenti avrebbero compromesso il ritmo della produzione, dove invece il capovolgimento in termini francamente tradizionali e perciò rassicuranti del conflitto cui si è accennato, allora assai di moda, garantiva approvazioni, eccitamento, simpatie e quindi vendite. E quindi, da capo, i cari denari. Per tornare ai nostri due giovani, mentre così passeggiavano serenamente in via Manzoni e soprattutto al daddo, di cui vedremo fra breve come non fosse legato seriamente alla propria ignoranza e come fosse generoso e puro di cuore, sì da meritare il tuo rispetto, lettore, ecco cosa disse il daddo. Vedremo, proverò. Ho l'idea che al di là di Gibilterra qualcosa di illecito e perciò di sofferente debba esservi. Cercherò nelle biblioteche, mi procurerò delle carte. Tu però, Boro, promettimi di pubblicare il tutto senza rumore, al solo scopo dell'elevazione morale degli ambrosiani, altrimenti no. Fece con un sorriso meno scherzoso di quanto volesse sembrare, inchinando appena sul petto la gentile testa che un vero elmo d'argento, così presto e senza alcuna ragione incanutivano gli aleardi, imprigionava, conferendo a volte a quel viso sottile una gravità medievale. «Te lo prometto, sta tranquillo!» mentì eccitato la Delchi, che già in mente sua, allegrissimo, pensava alla riunione di domani e a come avrebbe presentato l'opera tra qualche mese in cima alla torre. Voleva darle un titolo sensazionale, come ad esempio «Le notti di un pazzo», oppure «La strega», o meglio ancora «Bruciateli tutti!» Traduzioni e premi avrebbero portato al cielo le vendite. In realtà poi il libro non avrebbe letto neppure, dato che era un uomo assolutamente privo di curiosità malsane, un semplice, dominato da un'unica febbre: fare denari. Erano arrivati intanto in quel punto di via Manzoni, dove chi viene dalla Scala ha sulla sinistra i giardini, sulla destra la galleria omonima e davanti la più bella piazza che Milano possegga, con lo sfondo di un rado parco che la nebbia anche d'aprile avvolge d'un velo tranquillo. E come sempre, a quella vista, il Daddo provò un'amorosa mestizia, quasi un offuscamento, e dimenticando quel forsennato discorrere sul modo di abbeverare la noia umana, volgeva lo sguardo pacato tutto intorno, come chi avverte in sogno preghiere e raccomandazioni che la luce del giorno vieta di considerare reali, dietro tanta pace, un segreto lamento di perduti. «Come puoi immaginare?» continuava la Delchi, ma il conte già più non lo ascoltava. O Cagna. Sul vasto mare, un'isola a forma di corno. Dieci giorni dopo, affidato lo studio di via Bigli a due segretarie, una delle quali, la Bisi, era propriamente pazza di lui, perché il Daddo possedeva, tra l'altro, una delle più interminabili e serene figure ancora visibili nella pianura lombarda. E, salutata la contessa madre, che gli consegnò un grosso smeraldo da far legare a Siviglia, dove aveva il suo gioielliere di fiducia, il Daddo si imbarcò a Genova sulla Luisa, una barca di almeno 80 milioni di valore, diretto al basso Mediterraneo. Purtroppo, come già la Delchi in fatto di oppressione e la contessa madre a proposito di significati del vivere, il Daddo in materia di terreni da acquistare non aveva, forse perché non vi annetteva una vera importanza, idee e di conseguenza preferenze molto chiare. Conosceva come la propria mano il Mediterraneo e, benché praticamente fosse tutto in vendita, esitava continuamente. Ora, per non so che riguardo che gli ispirava la Sardegna, come ancora soffrisse e avesse bisogno di essere curata piuttosto che divisa, ora per non so che indulgenza che provava davanti alle isolette e scogli circostanti, come fossero troppo piccoli, per allontanarsi dalla madre loro, il che era semplicemente ridicolo e, ove non conoscessimo la fraterna sensibilità del conte, potremmo accusarlo di pietismo. Ora, come per esempio davanti a certi bellissimi tratti di Spagna, come se Dio stesse piangendo là tutte le sue lacrime e non bisognasse portarvi i rumorosi turisti. E insomma, il rispetto, quel sentimento sottile e un po' doloroso dell'altrui dignità che un tempo suggeriva ai cavalieri di fronte alla donna tante imprese mirabili e che il nobile lombardo dedicava, senza saperlo, alla terra tutta, gli complicava ogni volta quella pur semplice operazione che chiamasi acquisto. Ma questa volta, chissà perché, in maniera assai più decisa. Col suo lieto ed equilibrato carattere non se ne doleva e fidando sull'abilità del salvato, che era il marinaio della Luisa, aveva già pensato, una volta uscito da Gibilterra e doppiato il capo San Vincenzo, di risalire lento lento la costa del Portogallo, fino magari al Golfo di Biscaglia. Là, probabilmente, qualche isolotto si sarebbe avvistato, che non era di alcuno, e comprarlo non avrebbe recato offesa. Delle proteste della contessa madre, nella sua semplicità, non si preoccupava. Il tempo era buono, il mare calmo, la primavera spingeva fin sul mare il suo fiato caldo, e vi fu un momento, quando, lasciata la Luisa alla foce del Rio Tinto, il Daddo si recò a Siviglia in cerca di quel gioielliere, che l'azzurro si sarebbe tagliato a fette, tanto era azzurro. E vi era una calma, un silenzio, un tal piacere di vivere. Il signor Santos a Siviglia non c'era, essendosi recato a Granada per una festicciola di famiglia, e il Daddo si consolò girovagando per quelle bianche stradine, comprando inutili cianfrusaglie, ma che tali non sarebbero parsi alla contessa madre e alle due segretarie, specialmente la Bisi. E fra queste era una sciarpa di seta bianca, tutta filettata d'oro, bellissima, e una collana di pietre verdi azzurre per la moglie del salvato, affinché anche lei, al ritorno del marito, gioisse. Acquistò poi due cassette di Malaga, che il caro Adelchi avrebbe molto gradito, e per sé cartoline e tabacco da pipa. Al tramonto era di nuovo a Palos e la navigazione riprese. Durò vari giorni, perché Salvato pareva facesse apposta, ogni volta che un po' di vento spirava, ad ammainare la vela, e il conte, un po' per educazione, un po' perché ai ritardi poco badava, lo lasciava fare. Passavano le giornate così. Il Salvato, appena possibile, steso a dormire, con un braccio sulla fronte, e il Daddo, quando non doveva sostituirlo, su e giù per il ponte a riempire la pipa, a guardare le onde che sembravano liquide turchesi, a sorridere, a pensare quanto, in fondo, malgrado l'eterna questione tra Russia e America, il mondo sia bello e il cosmo una cosa graziosa. A Lisbona giunsero che era il 5 maggio. E c'era non so che festa religiosa. Le campane della cattedrale suonavano e il popolo sciamava lieto per le vie, fermandosi presso certe bancarelle illuminate a comprare noccioline, uva passa, porchetta arrosto, santini di gesso, trombette e certi carrettini di legno giallo e verde col cavallino bianco bardato di rosso. Il tutto per pochi centavos, come uso del popolo in ogni festività, e i portoghesi non facevano eccezione. Parvero in quell'occasione al Daddo gente bravissima, per quanto appena permalosa, e gli dispiacque di lasciarli. In programma non c'era più alcuna fermata se non avvistavano prima qualche nuova terra, almeno fino alla Corugna, dove si sarebbero trovati di nuovo in territorio spagnolo. L'indomani, 6 maggio, navigando nuovamente lontano dalla costa occidentale della penisola iberica, che era in un certo senso l'ultimo lembo di Europa, qualcosa cambiò. Il tempo era sempre buono, ma non v'era più quello smagliante azzurro, quel sole. Anzi, la luce appariva vagamente velata, come se vi fossero nuvolette che invece non c'erano. E il mare non era più turchese. Aveva preso una tinta di argento brunito come il dorso d'un pesce, e al posto delle scaglie vi erano tante piccole onde che si inseguivano. Vi era una pace grande, non più grande forse che nel Mediterraneo, perché il mare è dovunque lo stesso, ma che tale sembrava per quei pallidi colori in cui s'era addormito il sole e quella mestizia quasi da settimana santa che era nell'aria, benché la Pasqua, quell'anno, fosse caduta prestissimo e ora si fosse già alle soglie dell'estate. Una luminosità giallo-ambrata era tutto ciò che appariva all'orizzonte, mentre a destra ancora si intravedeva la costa bassa e nuda del Portogallo, finché non sparve come un'ombra, definitivamente. Allora, a quella luce rosata si mescolò un certo verde livido e le onde, pur senza agitarsi, divennero più grosse. Era l'una del 7 maggio e durante la notte e la mattinata erano passate altre miglia senza che perciò lo scenario mutasse, allorché al Daddo, che se ne stava sul ponte un po' pensieroso, al suo sguardo fanciullesco, si presentò lontanissimo in quella luminosità un punto verde-bruno a forma di corno, ciambella spezzata, che non risultava sulla carta. Chiese al marinaio di che potesse trattarsi. Aveva pensato in un primo momento ad un branco di cetacei, dato che quel punto, per quanto piccolo, presentava delle gibbosità. E Salvato gli rispose che poteva sbagliarsi, ma sembrava proprio l'isola di Ocagna. E dicendo questo, non aveva l'aria, del resto non l'aveva mai e dipendeva dalla sua pigrizia, di chi ardesse dalla curiosità e tenesse come grazia il poterla soddisfare. Anzi, Ocagna. Che bel nome, osservò il conte togliendosi la pipa di bocca. E disse così proprio perché in quel nome vi era un che di sgradevole e amaro, e ciò lo rendeva pietoso. Indi soggiunse con una specie di mite interrogazione: vedo che sulla carta non è segnata. No, non è segnata, rispose asciutto il Salvato, perché... e cercava di guardare in qualche punto dove l'occhio non incontrasse la misera Ocagna. Perché grazie a Dio quelli che fanno le carte sono cristiani e le cose del diavolo non le degnano. Andiamo, caro, rispose con un buon sorriso il conte. Non sta bene parlare così degli infelici. Se il diavolo esiste, il Signore gli vuole più bene che a te e a me, stanne certo. E poi perché dovrebbe essere del diavolo? Gli era venuto in mente che se quello scoglio era contornato da qualche brutta leggenda, probabilmente il prezzo era basso. E questo tutto sommato non gli dispiaceva. L'anima lombarda ha sempre un sottofondo pratico, che in qualche modo è anch'esso bontà. Il marinaio, così interpellato, farfugliò qualcosa e si capì come la leggenda fosse più improvvisata dalla sua pigrizia che sostenuta da uno storico fondamento. Ma alimentò un'impressione che poi il conte doveva riconoscere come molto vicina al vero. Trattarsi cioè non di una normale isola, altrimenti, diavolo no, le carte l'avrebbero indicata, quanto di uno squallido corno di roccia affiorante dal mare e semibruciato. Là, probabilmente, solo radici e serpenti esistevano. Vedremo, concluse. Non era un'idea felice, ma il Daddo a volte ne aveva. Qualcosa nel suo carattere di punto in bianco si incantava e lo spingeva a cercarsi delle difficoltà. Per essere più espliciti, certe solitudini e terrori, proprio perché egli amava il contrario, lo attraevano. Quasi si levassero di là delle povere voci di aiuto. Perciò, convenienza a parte, disse al Salvato che puntasse in quella direzione. Ordine a cui il giovane molto malvolentieri obbedì. Passò ancora una mezz'ora. Adesso, come in un occhiale giallastro o fatto tale da un po' di fumo, si vedevano certe querce, un campicello, una casa. Avanzarono ancora e all'ombra di una di quelle querce sedevano alcuni signori e una vecchia, tale sembrava, intenta a fare la calza. Avevano scorto la lussuosa imbarcazione del conte, ma non mossero quasi il collo. Uno di loro, il più giovane, dalla testa bianco-dorata, leggeva qualche cosa a ridosso del grande albero. Gli altri silenziosamente ascoltavano. Il Daddo fece alcuni segni generici di saluto, a cui non fu risposto nulla. Allora, pregando il Salvato di dare l'ancora, profittando del fondo basso, si calò in un'altra piccola imbarcazione, la Luisina, e superò remando quei 100 metri che lo separavano dalla spiaggia. Avrebbe detto, chissà perché, che si trattasse di gente impietrita.